Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Eccomi qua, buongiorno, spero di arrivare in tempo. A che punto siete della vostra beauty routine quotidiana e mattutina? Bene, perché oggi voglio proprio parlarvi di un tema che sta crescendo di interesse, è l'hormonal aging. In pratica si stanno studiando, per trovare delle soluzioni, gli effetti che gli ormoni hanno sulla nostra pelle. Quindi al mattino noi, o quando andremo a comprare un prodotto per la cura della nostra pelle, un domani non basterà più dire pelle secca, pelle mista, pelle grassa, ma probabilmente anche potremmo anche aggiungere un'informazione in più che potrebbe essere utile anche per la scelta del prodotto giusto, e cioè in che fase ormonale della vita ci troviamo. In linea con noi oggi è tornata a trovarci la dottoressa Fulgione. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dermatologo dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e consigliere nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica. Dottoressa Fulgione, è questo l'hormonal aging? Io l'ho tradotto un po', ma lei è più precisa, essendo una dermatologa e soprattutto studiando da tempo anche gli effetti che gli ormoni hanno sulla nostra pelle. Sì, è proprio questo Nicoletta, in realtà noi sappiamo bene che la pelle presenta delle esigenze differenti nelle varie fasi della vita, e queste esigenze, ormai se ne parla tanto, sono legate, no, ai famosi esposomi, quindi l'inquinamento, la salute, però in particolar modo le alterazioni ormonali cicliche che si hanno nel corso della vita, sia nell'uomo che nella donna, possono andare ad influire molto non solo sul nostro umore, perché lo sappiamo, pure mamma sulla mia voglia di alcuni cibi rispetto ad altri, ma a livello cutaneo realmente possono andare ad alterare quelle che, per esempio, la seborrea piuttosto che la idratazione. E in particolare sono tre gli ormoni con cui, diciamo, la nostra pelle gioca di più, e sono gli estrogeni, il progesterone e gli androgeni. Quindi tutte le fasi, la pubertà nella donna, la gravidanza, la menopausa e, diciamo, l'antropausa nell'uomo, sicuramente risentono tantissimo di questi ormoni un po' bizzarri, queste molecole incostanti che con le loro variazioni impattano fortemente sull'aspetto cutaneo del viso e del corpo. Non solo durante l'adolescenza, ma nel corso della vita, anche se questo effetto è chiaro nell'età dello sviluppo. Assolutamente. Primi brufoletti, sì. Ecco, ma poi gli ormoni continuano a darci del filo da torcere, se così vogliamo dire, ma meno male che ci sono. Partiamo proprio da quest'età più delicata. Che è l'adolescenza, la pubertà. Sì, il periodo delle grandi trasformazioni fisiche, sia nell'uomo appunto che nella donna, quindi il corpo cambia, e anche se all'inizio i segnali sono molto sfumati, poi c'è questa accelerazione, no? La crescita in altezza, le modifiche del peso, nella donna lo sviluppo del seno, nell'uomo cominciano la barba, però per esempio un aspetto molto legato all'aumento dell'ormone cortisolo, che in questo periodo proprio della vita aumenta tanto, determina la parte anche predisposto delle smagliature. Noi ad esempio negli anni passati vedevamo queste smagliature soprattutto nelle donne, oggi per i cambiamenti dell'alimentazione, dove questi picchi di cortisolo sono più alti, e anche per i tipi di attività fisica che vengono fatti, no? Ed ad esempio la palestra, l'ipertrofia dei muscoli, si tendono a fare questi sport che aumentano molto, abbiamo la comparsa delle smagliature in entrambi i sessi. Quindi le variazioni degli ormoni circolanti determinano proprio queste alterazioni importanti a livello della pelle, e poi chiaramente anche un aumento del volume delle ghiandole sebacee, quindi la produzione del sebo, provocando la comparsa nell'acne adolescenziale tipica nei soggetti predisposti. Quindi in questa fase, insomma, veramente è molto importante andare a cambiare anche un po' quella che è la skin care, anche in prevenzione, anche prima che compaiano questi famosi, diciamo, brufoletti, e questa presenza e permanenza di grasso della pelle deve essere proprio eliminata subito con una detersione adeguata. E quindi cosa possiamo consigliare? Cosa consiglia alle giovanissime e ai giovanissimi? Allora, innanzitutto sicuramente per evitare la comparsa degli inestetismi nell'acne, quindi dei comedoni chiusi, dei punti bianchi, dei punti neri, rappresenta il momento fondamentale, sempre mattina, sera, lì dove non ci sono delle particolari problematiche, potremo utilizzare dei gel, dei saponi liquidi, anche diciamo senza particolare attività seboregolatoria. Invece lì dove c'è una seborrea più importante, sicuramente mousse, detergenti con azione seboregolatoria, antinfiammatoria e anche leggermente esfoliante. Così come la crema idratante andrà scelta un po' con le stesse caratteristiche, quindi con un'azione di seboregolatoria. Regolazione, ad esempio ottimi gli acidi come l'acido salicilico per le pelli più diciamo sensibili, l'acido mandelico che possiamo ritrovare negli inci dei vari cosmetici. Dottoressa Fulgione, parliamo anche di un periodo molto delicato che si ripresenta un po' ogni mese per le donne in età fertile, perché durante le fasi del ciclo mestruale molte donne osservano dei cambiamenti della pelle, del viso, ad esempio il classico brufoletto, no, che spunta. Che cosa si può fare per evitare? Ecco, questa è quella che gli americani chiamano proprio la periodic skincare, cioè andare ad utilizzare dei prodotti diversi a seconda delle variazioni degli ormoni proprio durante le fasi del ciclo mestruale. Esempio, prima fase del ciclo, la fase follicolare, quindi la fase in cui la cute riceve uno stimolo degli estrogeni più importanti, la cute è già luminosa, uniforme, ne possiamo approfittare. Quindi in questa fase andremo a preferire l'idratazione, ad esempio un siero all'acido ialuronico, oppure dei sieri a base di vitamina C nelle pelli un po' più mature, ad esempio un siero a base di retinolo. Sì. Mentre nella fase un po' più particolare, la che va dall'ovulazione alla mestruazione, possiamo utilizzare dei prodotti dei dermocosmetici con un'azione sebo normalizzante, con un'azione leggermente esfoliante, il glicolico, ripeto, il salicilico, sicuramente in questo momento, o delle maschere purificanti possono aiutare la nostra pelle a restare in una fase, diciamo, di benessere maggiore. Passiamo rapidamente alla gravidanza, per poi dare consigli alle età più mature, uomini e donne. Lei ha parlato, anticipato, menopausa e andropausa, ma facciamo un saltino indietro. Gravidanza, ci sono delle attenzioni e delle precauzioni che possono adottare le mamme in attesa? Sicuramente uno dei problemi maggiori è quello dell'aumento della pigmentazione della pelle durante la gravidanza, quindi la famosa maschera, diciamo, gravidica, il melasma, tanto temuto, perfetto. Diciamo che lì c'è sempre un po' una predisposizione, però sicuramente per fare in modo che poi queste macchie non restino delle macchie anche dopo la gravidanza, quindi che persistano, perché molto spesso l'iperpigmentazione può rientrare, la prima regola è quella di utilizzare sempre delle creme con un filtro solare, quindi un SPF 50 tutti i giorni dell'anno, ed eventualmente la sera, chiaramente compatibilmente con lo stato di gravidanza, però oggi ci sono tanti dermocosmetici che possono essere utilizzati, dare un'azione preventiva per esempio con un trattamento un po' più illuminante, una cremina un po' più illuminante. Siamo arrivati alla fase delicatissima, menopausa, andropausa, anche se pelle dell'uomo e pelle delle donne invecchiano con in tempi sembrano diversi, ma poi alla fine gli ormoni ci mettono lo zampino. Assolutamente sì, infatti nella donna chiaramente l'invecchiamento cutaneo è un po' prima, e la menopausa con il calo degli estrogeni va un pochino a determinare una diminuzione della produzione di collagene, di elastina. Al contrario, negli uomini questo processo avviene chiaramente più lentamente, perché i loro ormoni, i cosiddetti androgeni, consentono di mantenere la pelle in uno stato un po' migliore, hanno una pelle tendenzialmente più seborroica. Però poi molto spesso accade che, o perché non si curano magari con le stesse con la stessa precisione delle donne, anche se oggi questo sta cambiando, il processo di invecchiamento poi porta delle rughe più importanti successivamente, quindi conviene in entrambi i casi prevenire. Bene, quindi passiamo ai consigli. Allora, per quanto riguarda la pelle di entrambi, quindi donne e uomini, sicuramente l'utilizzo di una crema al mattino con un filtro solare è già una prevenzione per l'invecchiamento cutaneo, quindi cominciare subito. E poi possiamo preferire nelle donne dopo la menopausa le creme con gli isoflavoni di soia che mimano l'azione degli estrogeni, mentre negli uomini ottime le creme a base di retinolo. Dottoressa Fulgione, così siamo a posto. Abbiamo anche seguito un po' le trasformazioni della nostra pelle indotte dagli ormoni. Siamo attrezzati per affrontare la giornata e io la ringrazio per questo aggiornamento e le auguro una buonissima giornata. Grazie sempre a voi. Noi ci sentiamo come sempre dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Qua con me Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi rimando come ogni giorno anche alle nostre video interviste che trovate sulla pagina Facebook del nostro programma e i nostri progetti del sabato e della domenica. Non mancate, buona giornata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.